falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. La puntata di oggi non ha un protagonista, ne ha due. Uno è un uomo reale, in carne ed ossa, secondo me il più grande scrittore del Novecento. L'altro è il suo personaggio più famoso, che è frutto della sua fantasia. Naturalmente le due storie si inseguono e si rincorrono, vivendo un'esistenza che è a metà strada tra la finzione e la realtà. Il grande scrittore è Georges Simenon, il suo alter ego, il commissario Maigret. Mi sono avventurato nel dire che è il più grande scrittore del Novecento, Simenon, perché lo trovo incredibilmente acuto, profondo e ciò nonostante incredibilmente moderno. È una persona che in tre righe sa descriverti una brasserie, una fascia, un volto, uno stato d'animo, quindi è molto dinamico e si legge a più strati. Puoi leggere solo per vedere chi è l'assassino o puoi leggere per capire la vita e te stesso. Conosciamo meglio chi è Simenon e chi è il suo commissario Maigret. Di veramente mio gli ho dato una regola fondamentale della mia vita: comprendere e non giudicare, perché ci sono soltanto vittime e non colpevoli. Gli ho dato anche i piaceri della pipa, ovviamente, e l'assenza di figli, perché quando il personaggio è nato non avevo ancora i quattro figli che poi ho avuto. Aggiungo che a Maigret ho dato un'altra regola: non bisognerebbe mai togliere all'essere umano la sua dignità personale. Umiliare qualcuno è il crimine peggiore di tutti. Simenon parla spesso durante la sua vita della genesi di Maigret, che è il personaggio più famoso dei tanti partoriti dalla sua fantasia. Ne ha ideati 9.005, è stato calcolato. Ovviamente Maigret è il suo più conosciuto. Per noi è più facile entrare in sintonia con questo commissario perché abbiamo avuto una grande fortuna. Nel mondo sono state realizzate decine e decine di film sceneggiati sulle inchieste del commissario Maigret. Ci sono attori che lo hanno interpretato in tutto il mondo, attori di tutte le nazionalità, ma noi abbiamo quello che lo stesso autore, Georges Simenon, ha definito il migliore, il più azzeccato, quello che veramente è riuscito a essere in tutto e per tutto il Maigret che lui aveva in mente. Sto parlando, naturalmente, del grandissimo Gino Cervi. Leopold? Sì, signor commissario. Da domani fammi accendere la stufa, Va bene, signor commissario. Fai mettere carbone e legna qui nel cassone. Bisognerà che mi facciate il buono per l'amministrazione. Ma quando qua ci vuole il buono per il carbone? Eh già, il nuovo economo dice che siccome hanno messo il termosifone non c'è ragione di accendere le stufe. Ma di che le venga a dire a me queste cose il tuo economo? Me rinfischio nei suoi termosifoni. Io voglio la mia stufa. Sono 20 anni che me la porto dietro. Voglio vedere il fuoco io. Parlerò io all'economo. La stufa di Maigret è uno dei tanti stratagemmi narrativi di Simenon e di Gino Cervi, che lo interpreta. Sono delle caratterizzazioni che Simenon usa per definire il suo personaggio, per renderlo reale in tutto e per tutto e soprattutto per rendercelo familiare. Per fare questo attinge direttamente alla sua stessa vita, ai suoi gusti e alle sue inclinazioni. È una vita molto interessante quella di Simenon, piena di fatti che meritano di essere raccontati e approfonditi. Et que la neige épaisse vient leur fermer les yeux, mais les fenêtres jacassent quand une femme passe, qui habite l'impasse où passent les messieurs. La fenêtre est un œuf quand elle est d'œil de bœuf, qui attend comme un veuf au coin d'un escalier. La fenêtre bataille quand elle est soupirail, d'où le soldat mitraille avant de succomber. Simenon nasce a Liegi, è belga, non è francese come molti credono. Nasce il 12 febbraio del 1903. E già qui c'è un piccolo mistero che aleggia sulla sua nascita. In realtà lui nasce il 13, che è un venerdì, ma sua madre Henriette, molto superstiziosa, teme che il binomio venerdì e 13 gli porti sfortuna, quindi lo registra come se fosse nato il giorno prima. Giorgio è di salute cagionevole, questi suoi problemi sono fonte di continui litigi tra i due clan familiari, i Simenon e i Brull, il nome di Henriette, della madre. Sono due fazioni molto forti in aperto conflitto. È una cosa che l'autore racconterà in diverse interviste, ma in molti dei suoi racconti ci sono queste liti familiari che cambiano le vite alle persone. Tra l'altro lui cresce mitizzando il padre e accusando la madre di essere morbosamente emotiva ma insensibile alle emozioni degli altri, altra caratteristica che molte donne di Simenon avranno, una madre con la quale ha ben pochi contatti anche in età adulta. È venuto a trovarmi varie volte ai Palange, mia madre. Ha chiesto a Teresa o a qualcun altro: siete sicuri che la casa sia stata pagata? Siete sicuri che non abbia debiti in giro? Siete sicuri che qualche giorno non lo vengono ad arrestare? E allora che volete che vi dica? Non c'era nessun contatto tra di noi. Nonostante questi frequenti dissapori familiari, il pessimo rapporto con la madre, George frequenta la scuola con ottimi risultati. È attirato particolarmente dalla letteratura. Dumas, padre e figlio, Stevenson, Dickens, Balzac, Stendhal sono i suoi autori preferiti e lui li divora. Dimostra di essere molto precoce. È precoce in tutto, anche nelle relazioni con le donne, specialmente prostitute con le quali ama intrattenersi tutti i giorni. È precoce nelle frequentazioni, è fuori dagli schemi e in alcuni casi è anche discutibile, è amico di anarchici, di artisti bohemien, ma anche di due futuri assassini. È precoce nel lavoro, a soli 16 anni viene assunto alla Gazette de Liège come cronista. Ci rimane 3 anni firmandosi con lo pseudonimo di Georges Sim. Quando ha 19 anni, nel 1922, il padre muore e lui decide di lasciare tutto, famiglia, lavoro, città. Una vita nuova lo attende a Parigi e tra poco scopriremo come si trasformerà nel grande scrittore che tutti conosciamo. Abbiamo lasciato il 19enne Georges Simenon a Parigi perché finalmente è arrivato nella capitale. E lui, belga, arriva e inizia a collaborare con delle riviste per le quali scrive articoli, racconti. È giovanissimo ancora, però in pochi mesi sono almeno una 15 le pubblicazioni per le quali produce racconti settimanali. È dotato di una velocità di scrittura strabiliante. Nell'arco di circa 3 anni scrive 750 novelle che firma con 37 pseudonimi diversi. Il motivo di questa profusione di pseudonimi lo racconta lui stesso in un documentario realizzato su di lui dalla Rai negli anni 60. Mi scusi, signor Simenon, ho qui una lista dei suoi pseudonimi: Aramis, Christian Brille, sì. Germain d'Antibes, questo, sì, è di origine marinara. Sì, giusto, sì. Luc, sì. D'Orsan, sì, Luc aristocratico. D'Orsan, sì. Georges Bury, ecco, Gongut, sì. Gongut, sì. Georges Martin, sì. Georges Sim, sì. Jean Dupéry, Jean Dupéry. Maurice Pertuis, sì. E poi Poum et Zec. Ah, Poum et Zec. Plic et Ploc. Sì, Plic et è un Ploc, po' come vedere, sì, il cinema muto. Tutti i pseudonimi per i miei racconti, per le novelle, delle cose Jean così. Jean Sandor, Gaston Vialy. Sì, ce ne sono, sì, altri. Sì. Perché capitava che con lo stesso editore dovevano uscire 4 romanzi nello stesso mese e allora era necessario firmarli con nomi diversi, altrimenti si sarebbe detto che quell'editore aveva un solo scrittore. Scrivevo anche a puntate in parecchi giornali. Mi succedeva di scrivere 6 racconti in una settimana e così occorrevano delle firme diverse. Tutti quei nomi lì sono pseudonimi che io usavo. Di pseudonimi. No, era solo come una fabbrica. Era molto facile, ma era una maniera di imparare il mio mestiere. Ci sono quelli che scrivono poesie quando hanno 20 anni e guadagnano da vivere lavorando in banca. Io invece ho preferito imparare il mio mestiere scrivendo, scrivendo, scrivendo. Magari le cose più ordinarie, le più semplici, ma scrivere, scrivere, scrivere. Quindi sono tanti i nomi degli scrittori, ma quello che fattura è sempre lui, Simenon, che quindi guadagna moltissimo e questo gli consente di realizzare un suo grande sogno, girare per i canali della stupenda campagna francese, i canali navigabili, comprare una chiatta che battezza Ginette e poi un cutter che è una barca a vela che chiama Ostrogoth e gira tutta la Francia e impara a conoscere panorami e atmosfere particolari che descriverà magistralmente nei suoi romanzi. Nel 1923, a 20 anni, si sposa con Régine Renchon, detta Tigi o Tigi, anche lei belga e sua fidanzata dai tempi di Liegi. Ma dal punto di vista dei rapporti sentimentali, Simenon è molto particolare. Nell'età matura ammetterà di essere stato un playboy, di avere tradito spesso le sue compagne ufficiali, affermerà di aver avuto più di 10.000 donne. C'è da domandarsi quando trovasse il tempo di scrivere. La risposta è che per le cose piacevoli c'è sempre il tempo. A proposito di donne, nel 1925 incontra un'artista incredibile, anche lei giovanissima, 19enne, e che gli fa perdere la testa. First you bring me joy, then bring me sorrow. Why you're just here today and gone tomorrow. Why can I have you for my own? Freda Josephine McDonald, nome d'arte Josephine Baker, una cantante, una danzatrice meticcia afroamericana destinata a una carriera sfolgorante. È bellissima, disinibita, balla seminuda con un gonnellino di banane che le circonda la vita. Siamo negli anni 20, eh? Simenon la vede scatenarsi nel Charleston, che è una danza trasgressiva allora sconosciuta, e in Europa se ne invaghisce, come peraltro centinaia di uomini, ma a differenza di tanti altri, lui riesce a conoscerla. Ha con lei una breve ma intensa relazione che non rimane segreta, per cui la moglie TG ne viene a conoscenza. Però il matrimonio sopravvive a questo turbine e a questo tradimento, che probabilmente non è il solo. Nel frattempo il nostro scrittore prende una decisione, passa dai racconti brevi ai romanzi commerciali. Tra il 1925 e il 30 ne pubblica 170 con diversi editori e sotto differenti pseudonimi, come sempre. Que tu es parti toutes ces nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. I romanzi commerciali di Simenon, come racconta lui stesso, non sono niente di che, ma rappresentano un fantastico apprendistato. C'è stato dapprima un romanzo, e cioè il Ponte degli Archi, è rimasta solo questa copia, il primo romanzo che ho scritto all'età di 16 anni. È stato tirato in 2000 copie, ma restò la macchia e ripeto, non ho che questa copia qui. Sono del periodo artigianale, nel quale imparavo il mestiere scrivendo romanzi popolari. Ce ne sono di ogni genere, sai? Ecco qua per esempio I cuori perduti. Sì, questo era molto molto sentimentale. Qua La fidanzata del diavolo di George Sim. Ecco un titolo magnifico questo, Dolorosa. Cioè dolorosa, sì, per far piangere le domestiche, le ragazze. Ma sì, ma queste ce n'erano per vecchi signori, vedi, il signore libidinoso, tutto diverso, eh. Essere appassionato, vedi, questo è un altro genere, eh. Ce n'erano anche per ragazzi, sa. Ecco qua, Il nano delle cascate. Sì, e poi ancora I pirati del Pacifico, Il timoniere Guercio, eccetera, eccetera. Tutto questo era del tempo in cui stavo imparando il mestiere. Simenon impara il mestiere scrivendo, naviga sui canali francesi a bordo del suo cutter, arriva fino a Delfzi nei Paesi Bassi. È una cittadina che ha un'importanza decisiva nella storia del nostro autore, perché lui ha scritto da poco 4 novelle per la rivista Detective, è un po' stufo di racconti popolari e per cambiare rotta decide di passare ai gialli, e in queste 4 novelle c'è un intreccio poliziesco piuttosto marginale, ma compare un personaggio secondario al quale Simenon non dà particolare attenzione. Il personaggio è un commissario di polizia e lui gli dà un nome che diventerà famoso in tutto il mondo, Jules Maigret. Ho utilizzato quel nome perché in quel momento mi è venuto in mente quello. Ma non è un nome inventato. Era il nome di un mio vicino di casa, che quando il personaggio cominciò a riscuotere successo, non apprezzò che il nome fosse usato per un volgare poliziotto. Il commissario Maigret fa il suo ingresso nella vita di Simenon in punta di piedi. Arriva senza farsi sentire in quelle quattro novelle dove ha soltanto una particina. Poi la sua presenza diventa deflagrante. E questo accade proprio a Delfzijl, nel nord dell'Olanda, dove Simenon stava navigando con la moglie TG nell'inverno del 29. Era diretto verso l'Île de France. È qui che nasce colui che darà a Simenon la fama mondiale, che lo renderà uno scrittore immortale, protagonista assoluto di 75 romanzi e di 28 racconti, ma i film, serie televisive di incredibile successo, interpretato da decine di attori famosi in tutti i paesi, in Francia Jean Gabin. Il commissario Maigret è un uomo unico, è un personaggio incredibile del quale tra poco scopriremo tutti i segreti. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre, à Paris, au mois d'août. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Georges Simenon, il mio scrittore preferito, il padre del famosissimo commissario Maigret. Una storia incredibile, da un lato di bulimia autorale iniziale, quindi Simenon è uno che ha scritto tantissimo, e poi la scoperta geniale che è quella di dare vita a questo particolare personaggio, il commissario Maigret, anche se Simenon non è solo il commissario Maigret, ma qui ci stiamo soffermando sul dualismo tra il protagonista dei romanzi e il suo creatore. Siamo nell'inverno del 29, lui è a Delfzijl nei Paesi Bassi, sta girando con una imbarcazione per tutti i fiumi dell'Europa del Nord, dà vita al suo personaggio e finalmente esce il primo vero romanzo in cui Maigret è protagonista. Si chiama Pietro il Lettone, qui naturalmente Simenon si firma con il suo nome reale perché capisce che qui sta succedendogli qualcosa di molto importante. Fino dalla prima e intricata storia, i tratti del commissario appaiono ben delineati nella descrizione di Simenon. Maigret non assomigliava ai poliziotti resi popolari dalle caricature. Non aveva né baffi né scarpe a doppia suola. Portava abiti di lana fine e di buon taglio. Inoltre si radeva ogni mattina e aveva mani curate. Ma la struttura era plebea. Maigret era enorme e di ossatura robusta. Muscoli duri risaltavano sotto la giacca e deformavano in poco tempo anche i pantaloni più nuovi. La grande forza di Simenon è proprio quella di avere descrizioni scarne, telegrafiche. Lui addirittura, esagerando, sostiene di non usare mai più di 2000 parole differenti per scrivere i suoi romanzi. Ho sempre cercato di scrivere con semplicità, usando parole concrete e non astratte. Se piove, basta scrivere che piove. Non c'è bisogno di dire che il cielo piange o piangono le nuvole o usare altre metafore. Questa è una delle ragioni per cui i miei libri sono stati tradotti in tutto il mondo, in una sessantina di lingue diverse. Eppure qui c'è la sua forza. Lui ha uno stile asciutto, poco incline a estetismi letterari, è brutale, crudo, eppure riesce a ritrarre in maniera profondamente umana i suoi personaggi. Il commissario Maigret in poche righe diventa un uomo in carne ed ossa, con delle caratteristiche così precisamente delineate, così personali, che chiunque di noi potrebbe giurare che Maigret sia una persona assolutamente vera, realmente esistente. Negli scritti che Simenon dedica a Maigret, 75 romanzi, 28 racconti e 8 tra articoli e prefazioni, il commissario rivela di se stesso una biografia più che dettagliata, carattere, gusti perfettamente descritti, tanto che di Maigret il lettore attento può sapere veramente tutto. È un uomo dall'aspetto severo, spesso chiuso nelle sue riflessioni, dal carattere scontroso e a tratti irritabile. Il suo corpo sembra assorbire l'atmosfera dei luoghi dove è avvenuto un crimine e appare divenire sempre più lento e pesante man mano che si compenetra nel caso che sta trattando. È amante della buona cucina popolare francese e dei buoni cibi che gli prepara la moglie. Ma si accontenta anche dei panini del bar vicino al commissariato. Beve d'abitudine di tutto. Birra, vino, liquori. J'ai le mare de Paris, de ses rues, ses boulevards. E la caratterizzazione di Maigret si addentra sempre più nei gusti del commissario. E per esempio lui associa le indagini a un particolare vino o liquore. E ci sono indagini al Calvados oppure al vino bianco. È un accanito fumatore di pipa, come peraltro Simenon. Ha una collezione enorme di pipe che cura personalmente, le allinea e le prepara nella scrivania del suo commissariato. Non guida, per spostarsi usa i taxi oppure la macchina di servizio quando si può. Nei taxi gli autisti lo riconoscono sempre. Soffre delle condizioni climatiche, se piove di malumore, se c'è bel tempo è soddisfatto e ottimista. Patisce il freddo e adora sempre la sua stufa che si porta dietro in tutti i cambi di commissariato. Quando fa freddo ha la scusa per indossare il suo cappotto pesante con i risvolti di velluto. C'è la nebbia, eh? Si direbbe ti faccia piacere. Beh, la prima nebbia dell'anno. Scusa, vuoi indossarlo? Lo spazzolo meglio. No, oh, finalmente. Cosa potrò metterci tutte le pipe di ricambio senza gonfiarmi troppo le tasche. Sì, ma per oggi avresti potuto mettere ancora quello di mezza stagione. Ma non ti penso nemmeno, sono mesi che aspetto il momento di risentirmela addosso. Ecco, vedi, puzza di naftalina. Avrebbe avuto bisogno di stare almeno una giornata all'aria. Beh, ce lo porto io all'aria. Ah, questo, naftalina. Esci prima del solito oggi. Sì. Come mai, vai a piedi all'ufficio? Ah, voglio godermi questa prima giornata d'inverno. Buona giornata, Maigret. Anche a te. In questo spezzone dello sceneggiato Rai abbiamo riconosciuto la voce di un'altra attrice gigantesca, la grande Andreina Pagnani, che ha il ruolo della signora Maigret, che è una donna assolutamente particolare. Maigret ha una biografia esattamente paragonabile a quella di un uomo reale. È nato nel 1887 a Saint-Fiacre, che è un piccolo villaggio immaginario vicino a Moulins. Il padre è amministratore di un castello, la mamma muore quando lui ha solo 8 anni, lo cresce una sorella sposata. Quando viene a mancare anche lei, decide di trasferirsi a Parigi in cerca di fortuna. Tutto questo Simenon lo racconta un po' in un romanzo, un po' in un altro. Ha solo 20 anni, Maigret non sa bene cosa farà, incontra un vicino di casa, un certo Jacquemin, che è un ispettore di polizia, quindi decide di diventare poliziotto anche lui, e alla fine incontra Louise Leonard, che è la futura signora Maigret, e i due si chiameranno sempre Maigret per cognome l'uno con l'altro. La sposa nel 1912, hanno una figlia che muore pochi giorni dopo la nascita, che è un evento triste, e c'è questo rimpianto che nei diversi racconti viene più volte vagamente accennato. La rapida carriera di Maigret passa dal servizio pubblico alla buon costume e infine arriva come capo nella brigata speciale. In tutte le sue inchieste Maigret attraversa un periodo più o meno lungo di incertezza, durante il quale, come dicono sottovoce i suoi collaboratori, sembra ruminare. Quando si trova di fronte ad un ambiente nuovo, aspira letteralmente la vita che lo circonda e se ne gonfia come una spugna. Aspetta il più a lungo possibile prima di formarsi un'opinione. Oppure non se la forma affatto. Conserva il suo giudizio libero fino al momento in cui un'evidenza non gli si impone, o fino a quando il suo interlocutore non inizia a cedere. Eh sì, una caratteristica molto particolare del commissario Maigret è che lui non si forma mai un'opinione preconcetta, è molto aperto mentalmente. Questo lo rende diverso dagli altri investigatori, e la cosa si ritrova per esempio in questa scena, che è tratta da una delle puntate delle inchieste del commissario Maigret. Qui con Gino Cervi, tanto per non farci mancare niente, recita il grande Arnoldo Foà. Il signor Dutroux? Sì. È stato incaricato lei delle indagini? Sì. Il suo nome? Maigret. Immagino che già si sarà fatto un'idea sulla faccenda. No. Oh. No. Ah, meglio così. Beh, è strano. Io ho sempre pensato che la polizia si faccia un'idea su un fatto prima ancora che il fatto avvenga. Matilde! E invece... Matilde! Oh! Eccomi! Signore! Sì, signore. Ecco, chiami bene subito quando ti chiamo. Vai a prendere una bottiglia di vino bianco, che è buono. Va bene. Signore. Me la vise pas, ce qui s'aime, route doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Simenon nasce il metodo Maigret, che è un modo di indagare che il commissario svolge uscendo dal suo ufficio, scendendo per le strade, scoprendo ambienti, persone, parlando con i testimoni, entrando nelle case, sempre agendo in maniera assolutamente informale. Lui è uno psicologo, per lui l'importante è conoscere, entrare in empatia con i personaggi che dovrà interrogare, conoscere l'ambiente in cui il delitto è stato commesso, il genere di vita, le abitudini degli uomini che sono coinvolti, vittime, colpevoli, testimoni. È il pretesto narrativo di Simenon per farci conoscere personaggi e il mondo, e quindi Maigret è quello che questi personaggi va a scoprire. Lui descrive il suo personaggio come un avvocat des hommes, un difensore degli uomini, è un accomodatore di destini, cerca di rimettere gli eventi al suo posto. Dunque, dove è andata vostra moglie domenica fra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio? Io non sapevo che fosse uscita. Vi avevano chiuso in camera come al solito, eh? Ma insomma, per Giove, non volete farmi credere che non sapete nemmeno perché vi chiudono in camera come una bestia rognosa, eh? Signor Le Cloagan, ma perché? Perché vi lasciate maltrattare senza lamentarvi? I vostri vicini parlano di voi, alcuni con disprezzo, altri con pietà. No, mia moglie ha cura di me. Ah sì? E allora perché girate inverno e estate con questo straccio addosso? Non avete un centesimo in tasca? Non possedete neanche, non so, un briciolo di tabacco? L'altro giorno una gente vi ha visto raccogliere una cicca per la strada. Io mi accontento. Sono contenta. Appunto, questo che non capisco, pertinci, non lo capisco, non riesco ad afferrarlo. Ma perché non vi lamentate, perché non vi ribellate nemmeno quando vi rinchiudono nella stanza più angusta della casa e vi nascondono alla vista di tutti gli amici come una bestia rognosa? Qui, oltre a Cervi, c'era un altro grandissimo attore, Sergio Tofano. Con le inchieste del commissario Maigret, Simenon dà una svolta importantissima al modo di concepire il romanzo poliziesco. Viene abbandonato lo schema del giallo classico all'inglese, che racconta di delitti perfetti, di investigatori infallibili, di indagini riuscite, di colpevoli assicurati alla giustizia. Nessuno è mai sfiorato dal dubbio. E poi vengono abbandonati gli ambienti altolocati, mondani. Simenon si rivolge a situazioni popolari, alla piccola borghesia, alle meschinità umane. Soprattutto, la domanda di fondo delle indagini non è più chi è stato, la domanda è più introspettiva: perché lo ha fatto? E trovato il motivo, si trova anche il colpevole e si può riuscire anche a cambiarne le sorti, diventando un accomodatore di destini. La vita di Maigret prosegue di pari passo con quella di Simenon. Un grandissimo esperto di questo scrittore è Andrea Camilleri, padre di un altro grande commissario, il commissario Montalbano. Camilleri è stato responsabile di produzione di alcune puntate della fortunata serie delle inchieste del commissario Maigret con Gino Cervi, che andarono in onda sulla Rai dal 64 al 72, e sottolinea la continua corrispondenza tra la vita reale di Simenon e quella letteraria di Maigret. Con Simenon si deve procedere canonicamente, cioè iniziando dalla sua vita, perché Simenon ha ampiamente contraddetto la convinzione di Pirandello che la vita o si scriveva o si viveva. Bene, Simenon l'ha vissuta scrivendola e l'ha scritta vivendola. E in effetti la vita di Simenon sembra un po' un romanzo. Insieme alla moglie viaggia per tutta l'Europa negli anni 30, continuando a scrivere sempre le inchieste del commissario in grande quantità. E se voi leggete un libro del commissario Maigret, c'è sempre scritto all'inizio, scritto a... ed è sempre un posto diverso. Intanto nel 39 nasce il figlio Marc, durante la guerra si occupa dell'assistenza dei rifugiati belgi, a causa di una errata diagnosi medica che gli concede solo 2 anni di vita, scrive un romanzo di memorie, Pedigree. Quando scopre che in realtà è sanissimo, inizia letteralmente una seconda vita. Si trasferisce negli Stati Uniti, conosce Denise Ouimet, che diventa la sua seconda moglie, dalla quale ha 3 figli. Cambia casa in continuazione, va in Canada, poi nuovamente in Europa, ha 33 residenze diverse. Segue le produzioni cinematografiche tratte dai suoi romanzi, conosce registi come Renoir, come Fellini, del quale diventa amico intimo, entra nella giuria del Festival del Cinema di Cannes. Nel 72, dopo aver pubblicato Maigret e il signor Charles, annuncia che non scriverà mai più. Improvvisamente dissi, no, non scriverò più nessun romanzo. Decisi di lasciare la Svizzera e di smettere di scrivere. Ogni volta che decido di cambiare casa avviene così, improvvisamente, come quando cambio paese, e mi sembra definitivo. Ero convinto che sarei restato per il resto dei miei giorni in America, e invece... Una decisione improvvisa quella di non scrivere più. Simenon la porta avanti per molti anni, poi la interrompe in occasione di un evento tragico, perché nel 1978 la figlia Marie-Jo si suicida. Lui scrive il romanzo autobiografico Memorie intime e lo dedica a lei. Nel 79 siamo al 50° anniversario della nascita di Maigret e Simenon indirizza al suo personaggio una lettera, proprio come se Maigret fosse una persona vera. Mio caro Maigret, sarà probabilmente sorpreso di ricevere una lettera da me, dal momento che siamo stati separati per circa 7 anni. Quest'anno è il 50° anniversario del giorno in cui a Delfitz ci siamo incontrati per la prima volta. Lei aveva circa 45 anni, io 25, ma lei ha avuto la fortuna da allora di trascorrere un certo numero di anni senza invecchiare. Ora siamo qui, 2 pensionati, e spero che anche lei stia assaporando le piccole gioie della vita, respirando l'aria del mattino, osservando con la mia stessa curiosità la natura e ciò che ci circonda. Ero ansioso di augurarvi un felice anniversario, a lei e alla signora Maigret, che probabilmente non sospetta ci siano tante donne che le invidiano e che molti uomini avrebbero voluto sposare una donna come lei. Con affetto, Georges Simenon. Beh, è una lettera molto commovente, una lettera dalla quale traspare tutto l'amore che l'autore prova per il suo personaggio e anche per la signora Maigret, che diciamo la parte un pochino più antiquata e maschilista di noi uomini vorrebbe avere per moglie, perché la signora Maigret sarebbe la moglie perfetta. Anche se Simenon ha scritto tantissimi libri, racconti, articoli, e anche se l'opera dedicata a Maigret in realtà non è che una parte minima della sua produzione totale, è chiaro che Simenon deve al nostro commissario la sua fama mondiale. Muore nel 1989 Simenon, muore a Losanna per un tumore al cervello, accudito fino alla fine dalla sua ultima compagna Teresa, di origine friulana, mentre il Maigret per eccellenza, il grande Gino Cervi, lo aveva preceduto nel 1974. Eppure l'uno e l'altro restano immortali grazie al commissario Maigret, che essendo nato tra le pagine di un romanzo torna a vivere ogni volta che qualcuno legge le sue meravigliose inchieste. Questa è stata la storia di un colpo d'ala durato decenni, un colpo d'ala che ha regalato a tutti noi pagine meravigliose, pagine sul commissario Maigret e non solo, scritte da Georges Simenon, una persona che ha dato un colpo d'ala al giorno per tutta la sua vita. Se volete mandateci commenti, segnalateci altre vite, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, venite a cercarci come e dove vi pare. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.